con Vincenzo Sacco di Altre Storie per parlare del film Mademoiselle di Chan Wook al cinema da giovedì 29 agosto 2019. Vincenzo, ben trovato. Ben trovati voi. Lo raccontiamo brevemente? Sì, il film è chiaramente una grande storia, tratta da un romanzo di Sarah Waters, ambientato nel 1862 in Inghilterra, Finger Smith, che Park Chan-wook, con la sua maestria storica e col suo stile inconfondibile, traspone negli anni 30 della Corea. Sì, la storia parla quella di un incontro, è la storia di un grande incontro con una giovane donna, Kiki, che viene ingaggiata come serva da una ricca giapponese, Hideko, che vive, insomma, in isolamento rispetto al resto del mondo insieme a suo zio. In realtà c'è un segreto dietro questo incontro, ovvero la giovane serva, in realtà è lei che mantiene questo segreto, sta per aiutare un furfante a affacciarsi per un conto giapponese, per concupire la padrona che si è appena andata a servire e per poter sottrarre tutta l'eredità sua e di sua zia. Quindi è così, si innesca questo intreccio che però sarà costellato da diversi colpi di scena, tra cui ovviamente l'inaspettata attrazione tra le due donne che sposerà in una relazione che cambierà tutte le carte in tavola. Un film di finzioni, è molto articolato, molto complesso, in cui un regista come Chan Wook sguazza. Sì, assolutamente. Poi io parlavo anche del sottile in apertura, perché credo che solo con una delicatezza e allo stesso tempo un'irruenza con la quale ci ha abituato, grazie alla trilogia della Bellezza, o poi i libri ovviamente che rimangono poi scolpiti nella nostra memoria, solo lui poteva creare, secondo me, questa sinergia, no? Stili, no? Di generi, perché c'è il dramma, c'è l'erotico, c'è il thriller. Una commissione di generi per cui alla fine c'è un grande film di qualità, dove tra l'altro fra i pochi registi orientali che ci riesce così perfettamente riesce a creare anche una perfetta commissione sia per uno stile orientale ma anche con uno stile occidentale, che si dice sia fin dal concepimento delle scenografie fino allo sviluppo stesso della trama. Dove avete intercettato il film? È stato anche lì un amore a prima vista perché è stato intercettato, per così dire, alla 69ª edizione del Festival di Cannes, dove era stata presentata, dove è stato presentato il film, intercettato con Giorgio e Vanessa Ferrero di Film 9, con la quale subito Altre Storie, no? Con la quale il nome Altre Storie hanno avuto una lunga partnership, sin da Sognare e Vivere, uscito nel 2017, che è il primo film del regista di Natalie Portman, tra l'altro organizzato da Antonio Mazzò. E quindi grazie a questa partnership con il nome, sin da subito a casa ci siamo innamorati di questo film che adesso è in sala il 29 agosto. Un film che ha impiegato però qualche anno a arrivare in sala, un film del 2016. Sì, guarda, in realtà come ti dicevo, noi siamo subito innamorati del film e quindi sin da subito abbiamo fatto in modo di poterlo inserire nei nostri listini. Poi, come sai, fra le varie vicissitudini di mercato, quindi alla fine l'uscita di un film è sempre pianificata per poter dare il meglio, no? La possibilità migliore a quel film per essere usufruito dalla sua utenza. In questo caso, un pubblico sia del cinema di qualità, ma anche un pubblico più largo che conosce Park Chan-wook, ormai dei tempi di Old Boy. E quindi si è trattato semplicemente di dover individuare la sua strategia promozionale anche la sua finestra uscita, quindi questo tipo per poterlo promuovere al massimo. Un regista che conosciamo soprattutto per due lavori che hanno avuto anche un certo riscontro in Italia, sto parlando di Old Boy e Lady Vendetta. Di questo titolo, personalmente, cosa hai apprezzato? Secondo me, quello che colpisce, che a me personalmente colpisce tanto, e che credo sia uno dei suoi punti di forza, è proprio la relazione tra le due donne al centro della storia. Sia perché la prima è una persona con un passato oscuro, e l'altra invece è una che vive un presente più disperato. E quindi hanno questi due excursus, questi due background così distinti, diversi che arrivano a collidere tra di loro per creare una nuova storia che mette insieme sia l'oscurità del passato, di questo presente turbolento, per creare qualcosa di nuovo, di affascinante, questo grazie anche a questi interpreti meravigliosi. In quante sale sarà? Sarà in 25 sale a partire da giovedì 29, tutte le principali città italiane, più tutto con tutte le Ricordiamo il film Mademoiselle di Park Chan-wook al cinema da giovedì 29 agosto 2019 con altre storie. Un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Sacco. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto.